Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Io non ci sto. Non ci sto perché sono stufo di non avere voce. Stufo di essere bistrattato da tutti. Sono un agricoltore, un coltivatore diretto. Cioè, coltivo la terra che possiedo e in particolare coltivo rose e mimose. Ecco perché non ci sto. Da una settimana tutti i mass media stanno continuando a ripetere lo slogan «Non comprate mimose, comprate gardenie». Ora, io riconosco che la mia posizione è difficile da difendere, dato che questa iniziativa è a favore della sclerosi multipla, una malattia molto grave, invalidante e per la quale non vi è alcuna cura. Riconosco che l'iniziativa dell'associazione è perfetta, ma io non riesco a starci lo stesso. Che cosa direste voi se, dopo un anno di coltivazione, dopo la preparazione dei vari mazzolini, dopo aver regolarmente preso manodopera, vi sentiste rispondere «Sai, quei 100 kg di mimosa che ti ho ordinato, beh, non darmeli più. Non ti servono. Adesso ci sono le gardenie». Il settore è in crisi da molti anni. I fiori forse sono il primo settore nel quale la globalizzazione ha dato i suoi frutti. Ma il 95% delle mimose di tutto il mondo proviene dalla provincia di Imperia. E io sono di Bordighera. Qui ci sono splendide macchie gialle sulle nostre colline e il profumo di questa fronda fiorita si assapora nell'aria. Siamo 20.000 in questa provincia a vivere di floricoltura. Lettera firmata. La scorsa estate ho ascoltato un programma nel quale venivano divulgati degli studi fatti da sociologi nel campo del lavoro. E uno dei risultati era che la pratica del mobbing nel posto di lavoro è, per l'80%, effettuata da donne su altre donne. Allora le donne dovrebbero anche guardarsi in faccia, oltre che reclamare giustamente più spazio. La verità è che anche loro hanno dentro la bestia che gode nel controllare e sottomettere gli altri, per paura di essere vittime dello stesso trattamento. Io direi alle donne, giù la maschera. Davide. Come può uno scoglio arginare il mare? Mi viene da mollare tutto e scappare, andare via, lontano da questa serva Italia. Ostello di ipocrisia e cinismo elevato all'ennesima potenza, osannato e sostenuto da chi è di essi vittima e idiota, ma felice sostenitore e succube. Ci hanno sempre insegnato, fin da piccoli, di non cercare mai scuse dei nostri atti sbagliati, di non dare mai ai nostri fallimenti la colpa agli altri, di farcene sempre carico, con discernimento e spirito di autocritica. Abbiamo sempre inculcato tali valori ai nostri figli, ai nostri alunni e a chiunque altro abbia avuto strettamente a che fare con noi. In questo guazzabuglio delle liste nel Lazio e in Lombardia, non ho sentito una, dico una sola parola di autocritica e di ammenda da parte di chi ha sbagliato palesemente. Ma certo che non sarebbe pensabile minimamente una competizione politica senza una delle due parti. Bisognerà trovare il modo, ma non così, con tale protervia. Dei loro errori non si caricano di colpa alcuna. Sempre i soliti giudici o i soliti comunisti. Ma dove sono più? Sono questi i valori che mettono in campo in questa competizione elettorale? Quanto mi sento scoglio. Franco, Reggio Calabria. Le diete dei radicali sono fasulle. Lo sciopero della sete si annulla mangiando della frutta, che contiene tra il 90 e il 98% di acqua. Il digiuno assoluto invece comporta la perdita di 5 kg circa nella prima settimana, dei quali 3 di acqua. Non l'acqua che si beve quando si ha sete, ma quella che i tessuti trattengono per raffreddare la combustione degli alimenti e che, in assenza di alimentazione, viene espulsa. Dalla seconda settimana si perdono 2,4 kg di ciccia, che equivalgono a 17.000 calorie, 2.300 calorie circa al giorno per un peso corporeo di 75 kg. I radicali, insomma, raramente hanno fatto dei digiuni integrali. Hanno semplicemente rinunciato a un pasto giornaliero. Ulisse. A chi giova il meccanismo oscuro e farraginoso di presentazione di liste elettorali? I noti incidenti riguardo alla presentazione di liste per concorrere alle elezioni regionali hanno evidenziato un meccanismo oscuro e quasi segretato per arrivare ad esercitare il diritto di presentare una propria scheda alle elezioni. Sembra quasi di trovarsi di fronte al meccanismo di certe gare per appalti, di cui pochi ne conoscono il bando. Perché non pubblicizzare e incentivare la presentazione di liste elettorali? Perché non dire a tutti come si fa per concorrere e partecipare? Si darebbe troppo fastidio ai partiti maggiori? E la democrazia? Ferdinando. Egregio direttore, secondo lei si sarebbero comportati esattamente allo stesso modo se si fosse trattato di riammettere una piccola lista minoritaria? Si è trattato di difendere il principio di consentire la possibilità di scelta agli elettori, a scapito di un altro principio, che è il rispetto delle regole. Marco. Caro Marco, la sua ipotesi è certamente realistica. Se fosse stata esclusa una lista minore e che magari si presentava per la prima volta, non ci sarebbe stata tutta questa montagna di polemiche e probabilmente nemmeno interventi di salvataggio. Detto questo, lei sottolinea però il punto centrale dell'attuale polemica, cioè il fatto che ci si è trovati di fronte a due principi egualmente importanti: il rispetto delle regole da una parte e la possibilità di scelta degli elettori dall'altra. Come ha sottolineato il presidente Napolitano, non era sostenibile che potessero non parteciparvi nella più grande regione italiana il candidato presidente e la lista del maggior partito politico di governo per gli errori nella presentazione della lista contestati dall'ufficio competente costituito presso la Corte d'Appello di Milano. E proprio per questo il caso è diventato di enorme importanza. I cittadini lombardi hanno il diritto di esprimere il loro voto a favore o contro chi ha guidato la regione negli ultimi anni. Siamo quindi in presenza di due principi ugualmente importanti e facendo pendere l'ago della bilancia dall'una o dall'altra parte si compie ugualmente un'ingiustizia. E allora è forse il caso di uscire dalla logica della contrapposizione, del bipolarismo esasperato, del bene da una parte e del male dall'altra. La politica dovrebbe ritrovare la capacità di guardare avanti al bene comune del paese. La politica dovrebbe fare un passo indietro, riconoscendo gli errori, e questo non è stato fatto, ed evitando di voler vincere le elezioni a tavolino. E anche questo non è stato fatto. Questa vicenda delle liste è uno specchio disarmante dell'incapacità dei partiti di dare una prova di maturità. Rispettare le regole è fondamentale, ma il rispetto delle regole e delle istituzioni dovrebbe far crescere la democrazia, non indebolirla. Altrimenti la nostra indignazione risponde solo a criteri di opportunità. E così, di fronte a una decisione pur grave e sofferta, come quella del Presidente della Repubblica, dovrebbe essere nella logica del bene comune il difendere ed appoggiare questa scelta. Ma la politica, purtroppo, sembra aver preso un'altra strada. Se vogliamo pensare seriamente al futuro, possiamo solo cercare di cambiare a livello strutturale le cose, non seguire la contingenza governata da altri. Occorre creare un movimento per tornare alla lira. Occorre ricreare le condizioni per far sì che il manifatturiero in Italia ridiventi competitivo. Altrimenti, tempo 3 anni, non ci sarà più un manifatturiero. La soluzione lira ci permetterebbe una riacquisizione della competitività immediata, una possibilità di crescita immediata nell'ordine del 5-6% di PIL all'anno, a scapito dei possessori di capitale che non vogliono questa cosa, perché con gli euro che hanno guadagnato con il lavoro di tutti vanno ad investire molto favorevolmente altrove, dove non pagano e dove il costo del lavoro è più basso. Non mi vengano a parlare di materie prime o debito pubblico, perché le materie prime le paghiamo sempre care, mentre con il passaggio alla lira il debito verrebbe dimezzato, subito, a favore dei poteri economici che attualmente lo controllano. Il ritorno alla lira subito ridarebbe un 40-50% di competitività alle aziende e al turismo. Tutte le manifestazioni per rallentare la deindustrializzazione in atto sono destinate a fallire, perché il capitale non guarda in faccia a nessuno. Il risultato sarebbe solo prolungare inutilmente l'agonia. Del resto, se chiedeste a qualcuno cosa può sostituire il manifatturiero in Italia, nessuno vi saprebbe rispondere, perché non c'è nulla. Allora facciamo qualcosa di diverso. Rompiamo gli schemi, provochiamo. Siamo in grado di formare un forte consenso per il ritorno alla lira? Parlate con la gente e vedrete che lo vogliono tutti, perché tutti hanno capito che l'euro è una finzione finanziaria, che tutti i sistemi di cambi fissi sono finiti malamente. Alex. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.